questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ultima chiamata per Mister Genta. Mister Genta è atteso urgentemente all'imbarco, il volo per Rio de Janeiro è in partenza tra pochi secondi. Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. Non ce l'ho fatta, l'ho perso. Ho perso quel dannato aereo del Rio de Janeiro. Mi tocca stare qui con voi, ma lo farò con enorme piacere. La colpa è stata tutta naturalmente di Piantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia. Mi hanno trattenuto, mi hanno fatto ascoltare alcune delle mie musiche preferite e quel volo io l'ho perso. Quindi per tutti i mondiali, ai voi vi toccherà ascoltare la mia voce e vi toccherà ascoltare questo programma tutti i giorni dalle 2 alle 4, tutti convocati, edizione mondiale. Magari non è stato neanche un gran male perdere quell'aereo su cui sono successe cose turche. Torre di controllo a 209, la pista è libera. Roger. Potete decollare. Frequenza di partenza 123.9. Roger. Torre di controllo, chi controlla direzione? Torre di controllo, controllo direzione. Direzione 324, controllato. Direzione 324, controllato. Roger, Roger, chi ha controllato direzione? La torre di controllo ha controllato. Chiudo. Torre di controllo, un momento. Passo. Come passo? Ah, io vedo. Roger, chiudo. Tris di 10, bull di cap. Allora io parlo. Volo AZ8080, atterraggio è avvenuto all'aeroporto Galeão di Rio alle 7.08 di questa mattina. Io non c'ero, c'erano un sacco di dubbi che l'Italia sia portata dietro sulla sua formazione, di cui parleremo e parlerete 80024 0024. C'erano poi insieme agli azzurri anche, come sapete, mogli e fidanzate. C'era anche Carolina Cassano, vero? Torni a sedere al suo posto, ci penso io, la signora. Si calmi, signora. Su, si calmi! Si controlli! Dottor Rumac, è desiderato il telefono. Grazie. Andrà tutto bene, vedrà. Cerchi di riprendersi, torni in su. Si calmi! Ci penso io. Voglio scendere da qui! Voglio scendere! Potevi scendere! Voglio scendere da qui! Volo tranquillo, clima sereno. Ranocchia, Insigne, De Sciglio, Cerci, Verratti, Immobile, Darmian e Perin non erano però in classe magnifica, erano appena dietro, nella classica plus, perché i posti disponibili al top, i posti top disponibili non erano sufficienti per tutto il gruppo. Hanno intervistato Demetrio Albertini che ha detto: ma no, un segno di umiltà per questi ragazzi, ma la umiltà non è mai mancata. Grande battuta, Albertini ha il gusto della battuta. Per fortuna su quel volo a tenere alto il morale del gruppo, indovinate chi c'era? Beh, Marione, Balotelli. Attenzione, attenzione, interrompiamo l'intervista perché abbiamo le palle piene tutti quanti. Basta con questa intervista a Albertini, che non gliene frega un cazzo a nessuno. Poi è della Rai, frega ancora di meno. Se no ci sediamo subito qua, non si mangia neanche noccioline, neanche patatine, non si mangia un cazzo. E questo non va bene, sedetevi. Vabbè, 800240024 è il numero verde. La nazionale comunque è arrivata in Brasile. Adesso comincia l'avventura del mondiale. Ad attendere la nazionale ci sono delle foto su Twitter inquietanti. C'era la folla delle grandi occasioni all'arrivo degli azzurri a Rio alle 7.08 di questa mattina. Due ragazzini, due. Uno con una maglia improbabile del Milan, secondo me tarocca, e l'altro con una maglia azzurra sulla cui autenticità e sulla cui età non metterei la mano sul fuoco. Allora, dai ragazzi, dopo il traffico vi prometto che ci colleghiamo con Pardo se possibile e parliamo sul serio dell'Italia mondiale, ma anche delle avversarie, perché ognuna ha le sue grane, ognuna ha la sua storia. Ognuno ha i suoi campioni più o meno infortunati. 800240024, come al solito, magliette di tutti i convocati al migliore in campo. A dopo. convocati. Stiamo cercando la nostra rockstar, Pierluigi Pardo, che è in Brasile. Io ho perso il volo, c'è chi mi scrive: saresti tornato dopo una settimana vista la squadra? Non sono d'accordo, io mantengo grandissimo ottimismo in proposito. Avremo in Brasile Pierluigi Pardo, come detto già là da mesi, e lo sapete bene, con i suoi improbabili telefoni. Avremo invece Dario Ricci con dei telefoni seri. È partito, sta arrivando, sarà il nostro inviato là. Allora, adesso però vi voglio, prima di cominciare a parlare con voi e di ricevere degli ospiti, 800 24 00 24, allora io vi voglio raccontare come funziona la vita qui alla ricerca di Pardo, qui a Radio 24. Franco Piantanida, spiegalo tu. Sì, perché sono sudato ogni giorno, allora sì. Vorrei proprio spiegarlo. È più facile chiamare Mick Jagger, eh? Nettamente più facile, sì, chiamare Keith Richards, mi sa che era un po' più difficile da trovare. Però Mick Jagger secondo me è più facile trovarlo di Pardo. Sì. Ah, non so, è una rockstar. Abbiamo compilato stamattina un fogliettino, sì. Excel. È una settimana che Pardo è in Brasile. Una settimana e abbiamo già 5 numeri di telefono diversi. Sì. 2 hotel con 2 stanze in cui una non è stato possibile trovarlo nonostante lui avesse detto che era lì in quel momento. Un cellulare brasiliano finora mai usato, il cellulare italiano su cui Pardo si è palesato per la prima volta con un SMS ieri sera e che comunque non si sente. Attenzione. Con Mick Jagger Pardo. Eccoci. Signor Jagger? Jagger Pardo? Mick Jagger? È lei? Siete impazziti, ma che siete. No, abbiamo appena raccontato perché noi stiamo, io e Piantanida stiamo tenendo un foglio Excel con tutti i tuoi numeri di telefono brasiliani. 5 giorni, 5 numeri, eh? Se Balotelli fa gli stessi numeri. Avete visto in esclusiva mondiale, sapete, CO24, premio calcio Italia 2, l'arrivo agli azzurri, voglio dire. Oppure avete preso sto buco clamoroso. No, è siamo qua da stamattina, siamo qui per servirla. Abbiamo fatto delle immagini, l'arrivo del pullman, è passato pure Paciocchino. Passati tutti. Chi è Paciocchino? Paciocchino è Christopher, che stanno visto poche wax, cioè credo Michela Quattro Ciocche, se non ho visto male, sicuramente Carolina Marsalis. Vestita d'azzurro, la signora Cassano, tutta d'azzurro. La signora Marchisi, vestita d'azzurro, non lo so perché ho visto l'immagine dal pullman. Confermo. Allora, siamo qui, vabbè, visto che non guardate la televisione, non guardate media. Ma noi facciamo la radio, Non abbiamo il tempo, allora, di guardare la televisione perché siamo impegnati a rincorrerti attraverso un fitto intreccio di numeri telefonici, Pier. Abbi pazienza. Ho capito, su questo ti do ragione. Vabbè, comunque adesso tra poco io devo fare un live per TCCOM 24, Italia 2, Premium Calcio. Però voi potreste anche accendere, no? Il canale 51, ad esempio, adesso. Un sano TCCOM 24, un canale All News che vi dà un po' di informazioni, che vi allarga anche un po' gli orizzonti, stare sempre lì a pensare al calcio, al tennis, al basket. Ci sono anche altre cose che succedono in questo momento del mondo. Nel frattempo, al di là delle battute, ti racconto che qui sono venuti per accogliere gli azzurri circa 100 soldati, ci sono una ventina di macchine della polizia, c'è la polizia rodoviaria federale, che è la polizia stradale con vari mezzi, ci sono parecchie telecamere, tutte brasiliane, devo dire, insomma, mi sembra, a parte noi, di non vedere facce conosciute, tante televisioni brasiliane. I brasiliani seguono queste competizioni con una quantità di mezzi anche quando sono dall'altra parte del mondo per loro, quindi figuriamoci in questa circostanza. Ti posso dire che per Fluminense Italia, la partita amichevole si gioca domenica, la federazione mi ha comunicato che sono stati richiesti 300 accrediti, che insomma è una cifra da big match di Serie A, quindi questo vi fa capire evidentemente quanto interesse c'è comunque attorno a questa squadra, che certamente non ha brillato nell'ultima fila contro il Lussemburgo, ha tutta una serie di punti interrogativi aperti davanti, però poi insomma viene sempre percepita comunque come una grande, grazie a Dio, del calcio mondiale. E beh, basta contare le stelle, basta contare le stellette che si porta sul petto. Allora, sentiamo dopo, non so dove, come, quando, su quale telefono, ma dove ci sentiamo. Ma accendiamo, aspetta un attimo. Ma aspetta un attimo, quando? Raccontiamo, allora, facciamo un momento di televisione, radio, un crossover mediatico, vai. Siamo tra un servizio e mezzo, quindi fra 2 o 3 minuti. È arrivato anche Young, storico, vieni qua, assolutamente. Wim Jong, storico giornalista cinese, Young, che al seguito della nazionale, seguirà la Dong, seguirà la nazionale anche questa volta? Naturalmente non si sente niente. Diciamo agli italiani più o meno qual è il nome. Ciao. Vai a TG.com, vai a TG.com. Noi così non ti vogliamo. Ciao. Sentiamo dopo. Per fortuna c'è qualcuno di serio. Paolo Condò. Ciao Paolo. Tutto vostro, buongiorno. Pardo mi fa impazzire. Anche a me, grandissimo. No, guarda, io vivo le mie giornate rincorrendolo attraverso 1000 numeri di telefono, ogni giorno ne cambia 2. Ma comunque, vabbè. Senti, ma sei impegnato per la Gazzetta, oltre all'intervista a Lippi, di cui ti abbiamo rubato qualche stralcio ieri, piaciuta molto, confermando il fatto che ha un carisma che Prandelli non ama, ma questo... Vabbè, insomma, è un carisma che gli deriva anche da tutto quello che ha vinto con la Juventus e con... la nazionale, sai, Prandelli è arrivato in nazionale preceduto da una stima generale di tutto l'ambiente, ma da 0 vittorie, questo anche conta. Sì, intanto stai facendo il giro di un'ampia panoramica delle nazionali che saranno avversarie. L'ultima cosa scritta è sulla Francia, che ha qualche problema, anche interno, anche fisico, ma mi sembra comunque sottovalutata. Leggi i nomi e sembra una grande nazionale. Ma guarda, la Francia, in realtà ci sono diversi osservatori che la osservano con grandissima attenzione. Sì. Perché è una squadra nella quale, questo si deve anche a Deschamps probabilmente, è una squadra, io per esempio con Lippi, insomma, vi posso dire che uscirà qualcosa anche sul giornale prossimamente, fatto lo stesso giorno con Lippi e Viareggio, stavolta basato su questo mondiale, e lui ha un'enorme considerazione della Francia, anche perché ha un'enorme considerazione di Deschamps, ce lo trova molto preparato tecnicamente con il pragmatismo che si è fatto in Italia, ovviamente. Sì. E lui dice che tra la classe dei Benzema e dei Ribéry, e questo è il punto di domanda fondamentale per vedere se Ribéry sarà, e la potenza dei Pogba o dei Varane dietro, questa è una squadra forte. Questa è una squadra forte che può andare fino in fondo. Ma lo è. Quanto agli altri, oggi sulla Gazzetta scrivi un pezzo in cui scannerizzi appunto la condizione fisica di tutte le varie squadre. I brasiliani stanno sempre bene per definizione, loro problemi non ne hanno mai, sono sempre allegri, felici e dicono partiamo per vincere il mondiale, ogni altro risultato non ci interessa, figurati a casa ma loro. Ma sai, la verità secondo me è che tra un po' noi vedremo chi ha fatto flanella tutto l'anno. Dici? Sì, secondo me sì. C'è Neymar così distaccato dalle sorti del Barcellona, alla prima stagione in Europa, Neymar l'abbiamo visto la Confederation l'anno scorso, un grande giocatore, così distaccato, così marginale, in questa stagione, oltretutto avrei potuto capire una marginalità se fosse entrato nel solito Barcellona schiaccia sassi, che funziona talmente bene che chiunque, ma è entrato in un Barcellona in totale crisi. Lo so Paolino, però tu conosci molto meglio quella realtà, però non so se si sia tenuto ai margini, se sia risparmiato per il mondiale o sia stato sbattuto ai margini da un ambiente che ha immessi il monarca assoluto. Sicuramente tutte e due le cose, però voglio dire, la personalità di un giocatore si vede anche da quanto vuole. Io sono sicuro che l'anno prossimo, andando come è probabile a Barcellona Neymar, sono sicuro che farà tutt'altra stagione, tutt'altro campionato. Quest'anno si è tenuto per il mondiale, è così in generale. Penso di Mourinho non era contento, ve lo ricordate, di Oscar? Beh, chiaro, nel finale di stagione era per tanto che non lo metteva, non lo metteva perché vedeva che chiaramente aveva un'altra testa. Ma questo era da mettere in preventivo. C'è Cristiano Ronaldo invece che con Real non si è risparmiato, però ha la macumba addosso, abbiamo letto e spiegato ieri, ha la macumba addosso e magari ha pure quella del Real Madrid che secondo me sta innescando una battaglia non da poco, sotterranea ma non da poco. Questo fa parte degli aspetti grotteschi del calcio moderno. perché quando negli ultimi giorni prima della finale di Champions c'era una concreta e palpabile preoccupazione che arrivava dal Portogallo verso il Real Madrid, che dicevano: oh, e se non sta bene non fatelo giocare, è sempre il mondiale qua. Sì. Adesso è completamente rovesciata la storia. Sì, certo. Quello del Madrid dice: guarda che noi sappiamo che non sta bene, perché l'abbiamo fatto giocare che non stava bene. Difatti Ronaldo alla finale di Champions non ha inciso assolutamente, non è stato lui a vincerla. La certo. giocata, la sola presenza mette paura agli avversari, però l'hanno decisa altri. E adesso il Real Madrid, che questa cosa la sa bene, dice: oh, fatelo giocare, sei perfettamente guarito. Ma è chiaro. Paolo, un'ultima cosa invece sull'Italia. Partiamo, abbiamo detto prima, arriviamo in Brasile con diversi problemi di confusione, ma pare proprio che si vada verso il mondiale al grido di prima non prenderle. Prandelli imbottirà il centrocampo lasciando Balotelli da solo là davanti, soluzione che tutto sommato è anche abbastanza intrigante per me. E per te? Sì, anche secondo me. Io sono molto contento dello spazio guadagnato da Verratti, che è un giovane che ha tutto, ha assolutamente tutto, e soprattutto ha aggiunto la sua grande qualità, 2 anni di esperienza in un grande club europeo come Paris Saint-Germain. Io l'ho visto nei 2 quarti di finale contro il Chelsea, il secondo è un po' mancato, quello di Stamford Bridge, ma nel primo ha dominato la partita, cioè il Chelsea che lo inseguiva senza avere idea di come prenderlo. E questo è un giocatore che, visto che non abbiamo 11 fuoriclasse, se abbiamo un piccolo potenziale progetto di fuoriclasse, questo deve giocare. Certo. Ho visto la partita con Lussemburgo, sono sostanzialmente, poi Lussemburgo dovresti batterlo anche bendato, questo è un fatto. Sì. Però d'altra parte sono abbastanza d'accordo con quella analisi che faceva Prandelli, che ha visto delle cose interessanti. Io non sono negativo, io penso io penso a questa cosa dell'Italia. Penso che se l'Italia vincerà il girone, andrà ad affrontare probabilmente la Spagna nei quarti e se la può giocare. Sì. Penso che se l'Italia arriva seconda nel girone, va a affrontare il Brasile nei quarti e non se la può giocare. Penso la stessa cosa, anche perché credo, l'ho già detto molte volte, che la Spagna sarà la grande delusione di questo mondiale. Ovviamente non ho mai azzeccato un pronostico, poi vince il mondiale in carrozza, però tant'è. Paolo, ti ringrazio, ti abbraccio. Ciao, buon lavoro. Paolo Condò, 800240024. Siete pronti? Dopo la borsa tocca a voi. Tutti convocati. Allora, Pardo torna tra poco, quando ha finito il suo servizio per Mediaset e quando avrà trovato un telefono che funziona naturalmente. 800240024, voglio parlare con voi. C'è Carlo che scrive un sms 349-238-6666. Questa è la mia griglia mondiale per la vittoria in pole position Brasile-Spagna. In seconda fila Germania-Argentina, in terza Italia-Francia. Possibile sorpresa il Belgio. Griglia condivisibile, magari senza troppa fantasia. Io non ci metterei la Spagna in prima fila accanto al Brasile per nulla, le ragioni le ho già dette prima. Mi sembra una squadra in netta parabola discendente, e insomma un po' simile al Barcellona come destino, una squadra che forse è pronta per il canto del cigno, che forse ha già dato il meglio di sé. Ma lo vediamo, lo scopriamo. Sono d'accordo con Paolo da Prato che scrive: ci disprezzano, ci irridono, ma poi hanno sempre una paura fottuta di incontrarci. Siamo un incubo per tutte loro. 800240024, Alberto, provincia di Monza, Stefano da Treviso. Buongiorno Alberto. Carlo, buongiorno. Ciao. Ciao. Quindi io, la telefonata è un po' per amicizia, un po' per tutto, ma ieri sera ho visto il servizio di Pardo, tristezza, con la giacchettina, la camicia messa male, era all'ombra di una pianta, squagliato da non so quanto caldo o da qualche pugna colata, qualcosa del genere, ma era devastante, poverino. È una, Pardo è una rockstar, devi capire che Pardo è una rockstar, ma poi ti racconto. Adesso è andato in onda il servizio su Mediaset, poi ti raccontiamo com'era vestito. Io non vedo l'ora che Maurizio Crosetti, che è un carissimo amico, lo raggiunga nei meandri del Brasile, sì, per poi raccontarci al ritorno le sue avventure. Lo faremo anche in corso d'opera, non ti preoccupare, perché Maurizio Crosetti lo becchiamo ovunque. Non come Pardo, che c'è da fare una ricerca interplanetaria. Crosetti lo becchiamo dovunque e lui ci dirà tutto, non, guarda che non ci scapperà niente nel corso di questi mondiali, che non vedo l'ora inizi, non ne posso più, non so tu. Non ce la faccio più. Anch'io non vedo l'ora che inizino, almeno cambiamo un po' di musica in giro per l'Italia, perché sinceramente non se ne può più. Almeno facciamo qualcosa di nuovo, sentiamo qualcosa di nuovo, poi commentiamo magari dopo il calcio. È chiaro. A presto Alberto, poi ti racconto Piantanita ti racconta come era vestito Pardo oggi nel servizio di Mediaset che è andato in onda pochi istanti fa. Stefano da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in questo momento sono appena sceso dall'auto, quindi ho perso gli ultimi minuti della trasmissione. Una considerazione sul volo degli azzurri verso il Brasile. In magnifica classe un gruppo e in business l'altro. Sì. Ma è un po' di smart spending? No, è una battuta, ma magnifica, costa un fottio di soldi. Ma e se dovessero uscire al primo turno, cosa che nessuno si augura, tornano in col gommone tornano. No, però Stefano, al di là dell'ironia che si può fare, è normale per gli atleti viaggiare in quelle condizioni. Chiaro che diciamo ok, soliti privilegiati e così via, però effettivamente ci sono anche delle ragioni che, ma non vale solo per i calciatori, vale per le squadre di atleti professionisti al massimo livello che vanno verso una competizione di questo tipo, hanno delle esigenze, questo saranno anche viziati, ma hanno delle esigenze proprio fisiche, quindi va bene, dai. Gli si può pagare sto volo, poi al ritorno vediamo, le esigenze fisiche non ce l'avranno più perché avranno già giocato, vediamo dove sono arrivati e vediamo dove li mettiamo. Ma adesso lasciamoli viaggiare lì. Duilio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, la nazionale è partita, l'ho vista l'altra sera. Pure arrivata. Penso che non mi divertirò molto, visto che sono degli energumeni del calcio. Degli energumeni. Non si vede un colpo da biliardo. E poi chiedo a lei, quegli orribili mutandoni... È impossibile guardare degli atleti già sbagliati. Però Duilio, poi parliamo dei mutandoni. Anche Pirlo e Verratti sono energumeni del calcio? Lei è giovane, io sono rimasto ancorato a Omar Sivori. Lei si ricorda Vendrame, Gigi Meroni. C'è gente che accarezza il pallone come il gatto, capito? Sì. Era un po' un altro sport. La vittima del mio intervento era la mutanda. Era il mutandone. Il mutandone, con gli stilisti lì bisognerebbe un po' limitarli perché incidono troppo. Ma vede che ormai il trend è questo, non portiamo solo noi mutandoni, cioè i pantaloni quasi alla Zuava. Ormai vede che in tutti gli sport, nel basket. Io non dico, lei ci ricorda l'Argentina dei Tarantini negli anni '80, non si dice di andare al gluteo, però neanche sotto il ginocchio, dai. Lo so, ma adesso la moda è questa, ma poi la moda ha corsi e ricorsi, quindi si tornerà alla mutanda corta. A me domanda se ricorda l'Argentina di Tarantini del 78, la squadra di cui mi sono perdutamente innamorato da ragazzino, pantaloncino nero con ovviamente maglietta albiceleste, classica tenuta dell'Argentina. È chiaro che avevano il pantaloncino da costume da bagno, questo ce lo ricordiamo, ma vabbè, insomma, sono mere questioni di stile, ecco, mere questioni di trend. Cambierà anche questo. Adesso nello sport moderno è il tempo dei mutandoni. Anche nel basket, dopo ne parliamo. Se avete intenzione di vedere la finale NBA in differita, la gara 1, la finale NBA in differita, allora tappatevi le orecchie, conto fino a 3, poi dico il risultato. 1, 2, 3. Adesso dico il risultato di gara 1 tra San Antonio e Miami. È finita 110-95 per San Antonio. Anche qui è successa una cosa strana, perché dopo pochi minuti di gioco, si giocava in Texas naturalmente a San Antonio, si è rotto l'impianto di condizionamento all'interno del palazzetto, quindi si è creata una temperatura degna di Manaus, dove giocherà l'Italia del calcio. LeBron James ha finito con i crampi, i giocatori erano disidratati, si giocava dentro quel forno a una temperatura ben superiore ai 30 gradi. San Antonio ha comunque portato a casa la partita, ripeto, 110-95, ottima gara di Belinelli, del nostro azzurro, che è stato molto importante nei 18 minuti in cui ha giocato, 9 punti per la partita degli Spurs. Sentiamolo Belinelli dopo la gara. Stasera è andata bene nonostante il caldo terrificante, però ripeto, sono una squadra forte, siamo solamente sull'1-0. Sicuramente il gioco è molto più aggressivo, molti più contatti, e penso che la cosa, almeno da questa gara 1, penso che la cosa fondamentale è quella di farci trovare pronto, cioè farci trovare sempre pronti a fare la cosa giusta in difesa, quindi principalmente stare lì con la testa. Questa penso che sia la grande differenza da una finale NBA a tutte le altre cose. Questo era il Beli dopo aver vinto gara 1 della finale NBA. Massimiliano da Roma, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Rispondo alla convocazione. Bravissimo. Perché da Roma è al raccordo, qui praticamente sono fermo e vedo gli altri camminare. Ecco, bravo, geolocalizzati. Dove stai? Dove sei? Sono sul raccordo dalle parti dell'Appia, sto tornando, torno a casa, ma insomma ci metterò un bel po' questa. Come dicono gli americani, traffic jam a Roma. Assolutamente, eh? Assolutamente. Ok. Senti, no, io parlando del mondiale, io che anche ho dei grossi, come dire, perplessità sulla nazionale, anche perché siamo tutti CT, quindi abbiamo certo. Tutti le grosse perplessità. Ma volevo fare un ragionamento. Secondo me, io vedo favoritissimo il Brasile, uno, e sopra in assoluto. Poi tre nazionali sotto che si possono giocare, che secondo me sono l'Argentina, che è molto forte, e la Germania, che c'è sempre. E io penso che onestamente anche la Spagna in qualche modo possa possa stare tra quelle, anche se la vedo meno. Bisogna metterla comunque tra quelle, perché forza, perché ovviamente è campione del mondo in carica, difende il titolo, e quindi bravo, chi ha il titolo in mano nella griglia dei favoriti ci finisce per forza. E poi sotto c'è il gruppone e ci siamo anche noi. Quindi c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è l'Inghilterra, c'è anche la Russia di Capello, ci sono tante squadre, quindi alla fine una svirgolata a nostro vantaggio ci può far arrivare su, perché sì. Non siamo. Possiamo anche uscire tranquillamente. C'è anche l'Uruguay nel gruppone dopo queste quattro. L'Uruguay mi sembra chiaramente una squadra estremamente pericolosa. Anche loro, medaglia di bronzo ai precedenti mondiali. Due grandissimi attaccanti che ben conosciamo. Mister più o meno 90 milioni di euro, tanto è valutato Suarez. L'altro è Cavani, naturalmente. Anche questa mi sembra una squadra forse oltre la maturità, praticamente la stessa squadra, lo stesso roster che ha fatto i mondiali precedenti, una difesa affidabile ma piuttosto vecchiotta. C'è ancora Forlan che ormai gioca a spiccioli di calcio in giro per il mondo e che riesce ancora in qualche maniera ad essere decisivo in questa squadra, però insomma anche questa mi sembra una squadra abbastanza in là con il processo di maturazione. D'altra parte hai ragione, l'Italia parte in questo gruppone, ma non è un brutto posto da cui partire, secondo me. Tutti convocati. Dunque, Filippo da Bari scrive: secondo me quest'anno ci sarà un altro maracanasso, alludendo a un possibile fallimento della nazionale brasiliana, che in effetti, a me non sembra giustificare tutto l'entusiasmo che c'è. Non mi sembra un grande Brasile. Certamente ha una superstar in Neymar, ne abbiamo parlato anche prima con Paolo Condò. Ha due grandi centrali di difesa come Thiago Silva e in questo caso Mister 60 milioni di euro, e cioè David Luiz. Ha una buona pattuglia di centrocampisti, però non mi sembra un Brasile tale da giustificare tutto l'entusiasmo che c'è lì, cioè tutte queste dichiarazioni di vittoria sicura. Io tifo Argentina e me ne frego dell'Italia, forza Higuain, scrive Vittorio. Ognuno tifa per quel che vuole. C'è Fabio da Roma che invece dà il benvenuto sempre via SMS, lo presentano oggi, poi se riusciamo facciamo anche sentire la voce di Stramaccioni, nuovo allenatore dell'Udinese. È tornato con me Franco Piantanida anche perché stiamo provando naturalmente a ricollegarci. Tu stai nominando poco l'Argentina, tu che sei un grande affissionato. Io faccio apposta nominare l'Argentina perché è meglio stare allineati. Guarda come stai schiscio. D'altra parte io siamo troppo legati alle lune e alle bizze di Lionel Messi e io quindi dell'Argentina mi fido poco, nel senso che non credo che abbia il carisma per portare l'Argentina in cima al mondo. Gli altri sono buoni o discreti giocatori, difensori rivedibili. Ecco, difensori rivedibili. Ecco, come magnanimo lei. La difesa rivedibile per l'Argentina e poi non so, insomma, vediamo. E poi Tevez a casa. E Tevez a casa, quindi abbiamo già la scusa, l'alibi pronto. Antonio, provincia di Salerno, buongiorno. Comporre. Che stai facendo? Cosa succede? Antonio! È la Pardeide questa. Antonio! Non c'è Antonio dalla provincia di Salerno, non funziona nessun telefono. Va bene, non funziona nessun telefono, allora io vi faccio sentire qualche altra voce. Abbiamo sentito quella di Belinelli. Sai chi possiamo far sentire? No? Uno. Perché ho visto un'immagine che abbiamo, mi ha. Dimmi. Ma chi? Antonio dalla provincia di Salerno. Capisco più. Antonio dalla provincia di Salerno. 800240024. Vediamo se almeno alla Radio 24 i telefoni funzionano. Dica. Sì, sono pronto, sono Antonio. Sì, è Antonio, dica. Sì. Allora, volevo chiedere a Pardo due cose. Prendo nota. Eliminare Cruciani dai programmi Radio 24 e far ripristinare Umberto Broccoli con il programma su Radio 1. Grazie. Prego. Non ho capito quasi niente. Chiedere a Pardo di, vabbè, niente, di eliminare Giuseppe Cruciani, cosa fa? Gliele dà, gliele suona, lo manda all'ospedale. No, non credo. Io anzi voglio Giuseppe Cruciani mio ospite a tutti i convocati in ogni momento, perché mi diverto molto a parlare di calcio con lui. Fabio da Mantova, buongiorno. Grazie per la convocazione. Ma grazie a lei. Due cose velocissime. Prego. Secondo me il calcio c'è un aspetto, un'alchimia che va al di là degli aspetti tecnici. Possiamo avere più o meno il livello tecnico è abbastanza allineato, però si può creare un qualcosa nel gruppo che può scombussolare tutto. Quindi ci sono quelle cose che non riusciamo a prevedere, ma si crea un qualcosa all'interno di quella squadra lì, l'abbiamo visto quando abbiamo vinto i mondiali, eccetera. Quindi c'è un'alchimia, ma capita anche in ogni squadra di ogni categoria, certo, che va al di là degli aspetti tecnici. Ma poi sopra a maggior ragione, Fabio, in competizioni brevi, no? Perché è ovvio che sono le cose che noi non immaginiamo neanche, anche sì, una squadra di basso livello, ma si crea quel gruppo, quella voglia, quel pizzico di fortuna che va a scombussolare tutto. Le butto lì un altro argomento, sì, raccontabile, in più di una volta volevo intervenire. Il fatto che ci siano delle organizzazioni che spingono le persone ad andare allo stadio, tutta una serie di cose. Non sottovaluti questo. 100.000 persone in meno fra tutte le squadre di A e di B per 100 euro di canone a Sky fanno 10 milioni di euro. 10 milioni di euro in un bilancio di Sky le posso garantire che fanno comodo. Mm-hmm. Mi scusi, la saluto e la ringrazio. Sì, mi spiega quest'ultima cosa che non l'ho capita bene. Allora, quando si parla di violenza allo stadio, di violenza, qualcuno dice in Italia nessuno spinge le persone a stare a casa, invece secondo me c'è tutta una lobby, una politica che spinge le persone a stare a casa, i biglietti incasinati, questi cioè, quindi, quindi secondo lei tutto questo è deliberato? Cioè, faccio due conti, 100.000 persone in meno, e ne abbiamo viste di persone in meno negli ultimi 3-4 anni, a 100 euro all'anno, perché sì, i 5 euro di canone al mese di Sky, sì, ho fatto un piccolo conto, sono 10 milioni di euro. Sì. In un bilancio di Sky Italia le garantisco che 10 milioni fanno la differenza. Certo, però è da vedere se quelli fanno l'abbonamento a Sky o fanno... io per andare a vedere una partita dell'Inter le garantisco che per me è stata un'odissea. Un giorno ho provato caso Fabio, andare a vedere una partita a Genova, ho perso 2 ore, allora, delle cose incredibili, sto a casa, me la guardo in televisione. Ho capito, ieri ho letto una mail di un ascoltatore che ha provato con 3 bambini ad andare a vedere l'Italia a Perugia contro il Lussemburgo ed è stata una totale odissea, una totale follia. Io però non credo che ci sia dietro un disegno oscuro, semplicemente stiamo vivendo con impianti che sono della metà del secolo scorso, no? Con strutture che risalgono alla metà del secolo scorso. Su questo sono state innestate delle legislazioni che trovo pazzesche, che ho sempre trovato pazzesche, secondo me la tessera di tifoso è una totale follia, la storia dei tornelli, dei biglietti numerati, che poi vai allo stadio e gli studenti dicono ma dai, senti dove vuoi, tanto qui non rispetta nessuno, quindi tutti sulle scalette, come esattamente come 30 anni fa, non credo che tutto questo sia deliberato, ma sa perché? Perché chi è abituato ad andare a vedere il calcio allo stadio normalmente non rinuncia allo stadio se non costretto per la televisione, cioè la televisione non è un'alternativa credibile alla partita allo stadio, è semplicemente una scelta o economica o di comodità, scomodità, però non è lo stesso vedere la partita in TV e vederla allo stadio, è completamente diverso, quindi se uno è abituato ad andarci certe volte sopporta anche quelle angherie cui tutto questo sistema lo sottopone. Salvatore da Salerno, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. No, qua stiamo parlando di Italia, Uruguay, Brasile favorito, Spagna favorita, ma ci dimentichiamo del Belgio, verde, la Colombia. Attenzione. Sì. Salvatore, sono le due outsider più pronosticate, il Belgio e la Colombia. Molto, secondo me molto. Sì, anche se la Colombia ha perso il suo principe giocatore, il suo re cannoniere, cioè Ramadel Falcao, che ha avuto questo infortunio molto grave, si è tirato fuori dalla nazionale. Questo non toglie che sia la Colombia più forte di sempre, dal punto di vista del talento, dal punto di vista della profondità della rosa, del roster. Quindi la Colombia e il Belgio sono due squadre, tra le outsider sono le due squadre più pronosticate come sorpresa. È chiaro però che in ogni mondiale da questo plotone a cui faceva riferimento l'ascoltatore di prima, da questo gruppone che sta dietro alle principali favorite, da questo gruppone esce sempre qualche sorpresa che non ti aspetti. L'ultima edizione fu l'Uruguay, ma fu anche la stessa Olanda, perché certo, all'inizio del torneo nessuno diceva l'Olanda arrivi in finale. L'Olanda ha sempre una buona squadra che dipende dalle lune dei vari gruppi, dei vari clan che si creano in spogliatoio. In questo mondiale Colombia e Belgio sono le due più pronosticate come outsider, ma vedrete che ne emergerà qualcun'altra. Quale? Non lo so, se volete ve lo chiedo. Quale? 800240024. Ci fermiamo per Bet Corner, GR e poi di nuovo insieme per un'altra ora. Quote e pronostici. Questa sera Novara e Varese si giocano un'enorme fetta della loro stagione al Piola, c'è l'andata dei playout per restare anche l'anno prossimo in Serie B. Si comincia alle 20:30 e sono queste le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei piemontesi, è quotata 2:40, l'X è a 3, il 2 con il successo del Varese sul campo del Novara è quotato addirittura a 3:20. Proseguono invece le amichevoli di premondiali alle 16, tra pochissimo la Russia di Capello sfida il Marocco, l'1 la vittoria della Russia è quotato 1:40, l'X è a 4, il 2 è quotato invece 8:50, Germania invece in campo alle 20:30 contro l'Armenia, l'1 il successo dei tedeschi è quasi scontato ed è quotato 1:07, l'X è a 9, il 2 con il successo che sarebbe clamoroso dell'Armenia sul campo della Germania è quotato addirittura 25. Venendo al basket, questa sera a Roma alle 20:30 c'è gara 4 tra Roma e Siena con la serie sullo 0-3 a favore dei senesi, l'1 la vittoria di Roma è quotata a 2:45, l'X è a 2:55, il 2 è quotato invece 3:40. Questa era l'ultima delle quote di oggi, noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Mi piace un sacco che adesso ognuno si è messo a dire la sua sugli underdog, su chi esce da quel gruppone cui faceva riferimento l'ascoltatore di prima, sotto le grandi favorite Brasile, Spagna, e Germania e Argentina, mettiamoci queste quattro, sotto c'è questo gruppo di cui fa parte anche l'Italia e da cui uscirà qualche sorpresa. Le più pronosticate sono Colombia e Belgio. Credo, caro ascoltatore che mi scrivi, che la Colombia di questa edizione sia più forte di quella di Italia 90, e poi ognuno ha la sua. cioè qualcuno che dice Giappone, Emiliano da Ferrara, poi la Russia di Capello, un altro ascoltatore, la Bosnia, se non vince comunque sarà inequivocabilmente, scrive l'ascoltatore, tra le prime quattro. Beppe da Bergamo, il Cile arriverà in finale e nessuno pronostica le africane, scrive un altro ascoltatore, le africane no. Io non... poi ovviamente avremo un americano e un africano in semifinale, però gli africani a sto giro non le vedo proprio. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Grazie Giampiero, 800240024. Saluto e ringrazio un caro amico che tutti conoscete, che è Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti voi. Tra le altre cose, preparatore atletico dell'Italia ai mondiali del 94, dove... Vincenzo, problemi ambientali non erano poi così diversi da quelli che vengono molto enfatizzati per questa spedizione brasiliana? Sì, guarda, io facevo proprio un pensiero intanto che vi sentivo parlare, per dire, secondo me un mondiale dove ad esempio la squadra, dove sarà molto importante il gruppo, perché quando c'è caldo, quando ci sono queste situazioni, si sta molto insieme dentro gli hotel e un tempo così lungo avere un bel cemento fra i giocatori, star bene insieme, per dire, è importante quasi come avere una buona condizione fisica. Quindi questo accadde a Stati Uniti 94? Guarda, io di USA 94, mentre non so, con Cesare Maldini nel 98 avevamo delle condizioni in Francia perfette, per cui certo, i giocatori certo, due o tre ore libere andavano in paese, facevano la camminata, e mentre USA 94 vivemmo 40 giorni quasi dentro un albergo. Quindi, per dire, anche la vicinanza fa sì che se c'è facilità a giocare, a stare insieme, per dire, il tempo passa in modo più facile, e in una così lunga sicuramente questo non è un aspetto secondario. Ma tu quali problemi incontrasti lì nel tuo ruolo? No, noi i problemi che avevamo, ad esempio i problemi per allenarci a che orario, sì, provammo di tutto, ci allenammo anche la mattina alle 8, ma alla fine vedemmo che non cambiava più di tanto, perché fu un'estate caldissima. E mi ricordo che quando ci allenammo la mattina alle 8 incominciammo che c'erano 29 gradi e finimmo che lo stesso ce n'era 34 o 35, ecco. Sì, quindi cambiava molto poco. Però secondo me, per dire, chiaramente là si potrà lavorare poco, quindi la condizione che avranno al momento in cui incominciano il campionato sarà quella che attorno a cui ci si potrà lavorare, ma non potranno, per dire, avere grandi miglioramenti. Ecco, anche ovviamente negli Stati Uniti nel 94 c'erano diversi problemi fisici, ci fu il recupero miracoloso di Baresi operato... Certo. Il menisco dopo la prima partita, c'era Baggio che alla fine non stava più in piedi. Insomma, si può recuperare un giocatore durante il mondiale? Si può riscaldare qualcosa? Senza fare nome perché è pesante, ma si vedeva esattamente da dove venivano i giocatori. I giocatori che venivano da squadre dove noi sapevamo che si lavorava, per dire, transitavano per i mondiali con dei problemi minimi. I giocatori che venivano da squadre dove si sapeva che si era lavorato molto meno, per dire, ebbero grandi problemi. Ci fu un giocatore che dopo la prima partita, tra l'altro l'ha schierato poi lui a distanza di tempo, disse: Arrigo non mi ha mai fatto giocare perché non avevo mai recuperato la prima partita. Ecco, è un caso attorno a cui fecero qualche polemica anche i giornalisti. Beh, a tanta distanza possiamo dirlo, era signori, ecco, l'impiego di signori, che dopo la prima partita lui stesso disse: per me recuperare in quelle condizioni lì è difficilissimo, insomma, ecco. Pierluigi Pardo, ci sei? Certo, come va? Tutto bene? Grande, tutto bene. Pierluigi, hai sentito cosa diceva il professor Pincolini? Beh, grandissimo, tutto lo saluto. Sì, ho intrasentito. No, diceva una cosa, diceva questo, nel 94 in condizioni ambientali molto difficili, quindi difficoltà di allenarsi eccetera eccetera, si vedeva chiaramente quando c'erano giocatori che arrivavano da certe realtà dove erano abituati a lavorare in un certo modo e quindi non hanno avuto problemi se non minimi, e giocatori che arrivavano da altre realtà che non ce la facevano stare in campo. Mi ricordo ad esempio i giocatori del Parma che avevano concluso, e allora c'era il Parma di Scala e ci fu l'exploit del terzino, sì, Mussi. Ben arrivo soprattutto, ma cioè erano giocatori, cioè nelle condizioni estreme chiaramente si vedono molto i problemi di condizione, e quindi per dire, si dice anche sui libri che un giocatore ben allenato ha una buona termoregolazione, quindi sta meglio sia al freddo che al caldo. Questo è uno dei principi, insomma, della teoria dell'allenamento, e chiaramente in queste situazioni si sottolinea ancora di più questi principi. Sì. Prima di lasciarti a Pardo, professore, ti chiedo questo, alla luce di quello che si sa, l'esclusione di Giuseppe Rossi, secondo te è fisica o tecnica? Ma secondo me è fisica. Cioè io da quello, tra l'altro, guarda, parli con uno con me che abbiamo visto, io sono di Salso Maggiore Terme, e Pepito Rossi quando venne in Italia col papà e con la mamma visse 5 anni a Salso Maggiore, dove lui ha ancora gli amici di una volta, sì. È un giocatore che io so che Prandelli ama molto, io so che nel gruppo ci sa stare molto bene, per dire, ho una certa frequentazione anche di Coverciano, quindi certo. Io penso che sia legato solo ed esclusivamente a dei dubbi sulla sua tenuta. Io tra l'altro penso anche che dopo un giro così, cioè sicuramente Giuseppe c'ha un momento di amarezza, però per la sua carriera sicuramente è meglio se lui ha a disposizione 2 o 3 mesi per concludere questa rieducazione, che dopo tanti interventi, se lo rivedremo giocare ai suoi livelli soliti, si potrà parlare, non dico di miracolo, ma di un fatto grosso che è venuto. Ecco. Pierluigi? Ma io penso che debba per forza essere stata un'esclusione fisica, perché dal punto di vista tecnico veramente sarebbe clamoroso. Esatto. Rossi è un giocatore fondamentale, è stato un giocatore fondamentale in questi 4 anni per Prandelli, quindi davvero sarebbe clamoroso, insomma, non posso neanche immaginare questa cosa. La scelta poi successiva di Insigne per la vita a destra, secondo me invece quella è una scelta tattica. Tattica, certo. Perché è la scelta di prendere. Senti, dal Brasile vuoi chiedere qualcosa, Vincenzo Pincolini? C'è qualche curiosità che ti viene in mente, vivendo già lì nel clima in cui si giocherà questo mondiale? No, si è molto parlato di questa gabbia Manaus, no? Di questo cercare di riprodurre le condizioni ambientali che troveremo nella prima partita. Noi da questo punto di vista non siamo fortunati, perché siamo una nazionale che viaggerà di più tra quelle importanti nella prima fase, insomma. Tu ci credi a questo tipo di strumento, e in che misura è possibile riuscire a replicare delle condizioni? Io sono di quelli non scettici nei confronti della gabbia di Manaus, però per dire, io dico sempre che a monte ci sono i 360 gradi, che sono quello che un giocatore ha fatto durante tutto l'anno. Poi ci sono anche i dettagli a cui bisogna stare molto attento, ma questa gabbia può essere un dettaglio. Avere questo sistema che hanno innovativo di questa applicazione del Politecnico, che controlla la qualità dei movimenti per darti un'idea della stanchezza e di altro, sicuramente sono tutti dettagli che ti possono dare una mano. Anche la casetta di Coverciano, Vincenzo. Ma sì, una mano te la può dare anche quella, perlomeno ti fa fare alcune riflessioni, però attenzione, se a monte non c'è stato un anno fatto regolarmente, se a monte non c'è stato non c'è una condizione, per dire, medio alta su cui lavorare, diventa dopo i dettagli non cambiano mica niente. Il dettaglio fa sì che, per dire, che il quadro, ecco, è un po' la cornice di un quadro bello. Se il quadro è già bello di per sé, qualsiasi cornice va bene, altrimenti solo la cornice non fa mai, sì, non certo. fa mai la figura. Sì, certo, ma anche perché, insomma, si enfatizza molto, però non è che fare la preparazione come tu hai fatto 1000 volte al Milan di Sacchi ad agosto a Milanello sia poi così diverso, insomma. Per tanti versi è quella. Guarda, noi nel calcio dimentichiamo, prima parlavamo di teoria dell'allenamento, che ogni tanto va sottolineata. Ad esempio c'è l'adattamento alla grande fatica, che è una di quelle cose dove nel calcio di oggi, per dire, si fa fatica a raggiungere e a ottenere. Dopodiché si possono parlare anche di infortuni dovuti a questo mancato adattamento. Già vediamo, cioè parliamo sempre poi delle solite cose, già vediamo i programmi delle squadre, 5 giorni di allenamento, per dire, in ritiro, e poi via, tournée in America a 35 gradi. Chiaro. È chiaro che una volta in quei 40 giorni si puntava proprio alla sindrome di adattamento alla fatica, viene chiamata proprio in gergo teorico tecnico. Adesso questo adattamento alla fatica non c'è più, quindi qualsiasi cosa che ti succede è una cosa, un'emergenza, ecco, quando il fisico non è così pronto. Certamente, sai, sì. Non è che parliamo solo del calcio italiano, ma no, appunto, sono problemi che valgono tu per guarda, tutti. Guarda ad esempio adesso nell'avvicinamento al Brasile, anche le altre nazionali, quanti problemi fisici hanno, perché il calcio ormai logora tutti, insomma. Beh, chiaro, arrivi alla fine della stagione, sei spremuto e ti porti dietro un sacco di giocatori, certo. Anche quelli importanti, che poi sono quelli che giocano più partite, che hanno giocato pieni di Cerotti. Non so se Pierluigi vuole chiederti ancora qualcosa. No, lui ha una percezione di come siamo fisicamente, cioè sono cose che si riescono a capire dall'esterno rispetto alle altre nazionali, perché la squadra per esempio l'altro giorno è sembrata molto imballata, ma questa potrebbe anche essere, lo dico da profano, una buona notizia, no? O comunque diciamo una normale conseguenza della fatica e quindi esatto. Coverciano. Io credo proprio che tra l'altro ci siano tutta una serie di preoccupazioni in queste partite legate al mondiale, non legate all'amichevole stessa. Quindi c'è un tirare indietro la gamba, c'è un pochino sicuramente essere un po' più stanchi. E poi per dire c'è proprio anche quasi il rilassarsi un attimo prima di quella volata, che perché poi il mondiale è una grande volata che ti ciuccerà, che ti succhierà tutte le energie nervose che hai, quindi proprio l'avvicinamento è un avvicinamento dove il giocatore deve dimenticare gli stress del campionato, per dire, e riacquistare quella super concentrazione da dedicare al mondiale. Parlando della condizione dei giocatori, comunque, per dire, io sono abbastanza ottimista, perché ho visto dei giocatori, ad esempio, non so, gli ultimi contropiedi del Torino con Cerci e Immobile ai 200 all'ora, ecco, secondo me quelli lì sono dei flash che, per dire, che vengono ancora dal campionato, che potrebbero essere utili in nazionale, anche perché faccio una considerazione quasi da giornalista, tra virgolette, mi vergogno, ma per dire, ogni mondiale deve presentare delle novità. Prandelli ha preso su una rosa da cui possono uscire delle novità. Se non abbiamo il Pablito Rossi della situazione, lo Schillaci della situazione durante i mondiali, per dire, sicuramente non andiamo molto avanti, ma nel gruppo c'è gente di qualità che può fare la sorpresa. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Grazie, ciao, e buon mondiale sempre. A tutti. Buon mondiale, ciao. Vincenzo Vincolini. This is Hair Leg Show and I opening the show. Buongiorno Alberto. Carlo, buongiorno. Ciao. Ciao. Quindi io la telefonata è un po' per amicizia, un po' per tutto, ma ieri sera ho visto il servizio di Pardo con la giacchettina, la camicia messa male, era all'ombra di una pianta, squagliato da non so quanto caldo o da qualche pignacolata, qualcosa del genere, ma era devastante, poverino. Eccolo. Sentita la telefonata? Sentita. Questa è tutta roba di Piantaneda che ti ha sbirciato prima mentre facevi il servizio su Mediaset. TGcom 24, una giacca da tranviere ATM. No. Perché a Milano. La camicia. Una camicia da tranviere, una roba inguardabile, una cravatta. Che colore era? Nera. Ma che roba è? Ma cos'è che hai messo in valigia? Piantaneda Sallanca. Cioè, io l'ho sempre trattato. Sempre stato Piantaneda con un rispetto, forse anche esagerato, comincio a pensare, forse ho esagerato con gli elogi, ecco, io ti dico solo che questo mi sembra assurdo, io sono, a parte, vabbè, solo non posso fare dei marchi, ma altissima qualità, insomma, sì. Altissima qualità, ecco. Parla un uomo di grandissime eleganze. Vabbè, dai, senti, dici, visto che sei arrivato con un assolutamente colpevole ritardo, cosa hai mangiato a colazione, almeno questo, dai. Dai, di più. Colassao. Abbiamo mangiato un po' di papaya, un po' di mango, melone. Aspetta, vi passo la Bracco, produttrice Mediaset, Radio 24. Guarda, abbiamo soltanto, in questo momento avremo 700.000 ascoltatori, forse 1,5 milioni. A ribasso, oh. Sì, pronto. Ciao. Ciao. Come si comporta Pardo? Beh, poi potete immaginare. Lo conosciamo. Che avete mangiato a colazione? Abbiamo mangiato, beh, io personalmente ne ho fatte due stamattina, due. Perché ci siamo svegliati molto presto. Quindi lui ne ha almeno quattro. Lui ne ha fatte quattro, esatto. Abbiamo mangiato, no, un po' di frutta. Sì, ma che ridete tutti? Abbiamo mangiato frutta, io sono andata sul dolce e lui sul salato. Sì, abbacchio. Ho capito. Abbacchio, abbacchio. Portatelo in qualche boutique di Rio de Janeiro. Non so quale sia la Monte Napoleone di Rio, ma una cravatta, una camicia un po' diversa, una qualcosa di là. Un po' decente. Lasciatemelo stare, ragazzi. Lasciatemelo stare. Ringraziate che non allarghiamo l'inquadratura, perché sotto c'è di tutto. Grazie Pierluigi. Ciao. Pierluigi, pari al bracco, simpaticissimo. Io ti sto difendendo a spada tratta contro tutto il mondo, eh. No, tu sappi questo, punto, io ti difenderò fino alla morte. È molto semplice, che il giornalista televisivo mediamente in condizioni di grande caldo si mette giacca, cravatta e magari se ne è tradito o in bermuda, insomma, certo. Non c'è niente di clamoroso. No, non c'è cioè, è anche tutto normale, come gli attori che si mettono su trespolo quando devono recitare. Ho dei pantaloni blu di alta qualità, sì. Stessa azienda produttrice delle giacche, di cui non faccio il nome, ma ecco. Va bene. A voi puoi farlo, non c'è problema. Ma no. Sul bermuda a fiori ripassiamo più tardi. No, che bermuda a fiori, no. Niente bermuda a fiori. Vabbè, bermuda, sai, in valigia c'è di tutto, ragazzi, ma qua è 45 giorni a Maradona, voglio dire. La mattina sveglia alle 6:15, no? Sei bracco, all'improvviso, fra l'altro. All'improvviso ho visto il tuo messaggio, il mio viso, va bene, dica. Danilo, provincia di Ravenna. Ah, buongiorno, grazie per la convocazione. Io avevo provato anche venerdì scorso perché era il mio compleanno e tanti auguri, indifferito. Io da interista, allora gli volevo chiedere un regalo, cioè che mi togliesse di mezzo Mazzarri, perché con quello lì non si vincerà mai niente. Allora, così, perché io con gli amici il signor Mazzarri l'ho battezzato come Mister Maguro, che si assomiglia molto al cartone animato. Quindi così è un regalo che avrei voluto che mi facesse, che ho visto si sono fatti scappare anche la coppia Mazzarri, cioè il Stramaccioni Stanco, secondo me farà molto bene. Però Stramaccioni aveva dato l'anno scorso all'Inter, non sì, esattamente però, vinto lo scudetto. Poi mi è venuto a mancare a mezza squadra, c'è anche di più. Quindi più gli ho dovuto subire il caso Snyder e tutte queste robe qua. Comunque vabbè, lasciamo perdere che adesso alla nazionale. Io adesso, come tutti tanti, sono tutti cittina, io do la mia formazione. Bravo. Che poi allora io farei Sirigu, De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Darmian, sì? Poi De Rossi, Juventino si chiama Marchisio centrocampo, Insigne, Verratti, Cerci e Immobile. Per vedere Cerci e Immobile. Pirlo in panchina, un under 21. Sì, ma Pirlo in panchina. Pirlo in panchina, Balotelli fuori e Buffon esautorato. Anche Buffon. Sì. Tutti fuori. È giusto per non stare lì sempre con la prima idea di primo non prendere, di attaccare un pochino più. Però magari anche vincere qualche partita, non so, con questo. Secondo me. No, ma è giusto, ognuno ha le sue idee. Secondo me questa squadra qui, cioè così, è stata compatta e che riesca a correre abbastanza velocemente, senza Buffon, Pirlo e Balotelli, non so. Io non la farei. Pardo neanche, credo. No. Via Buffon, Pirlo, Balotelli. Ci sono delle cose, si può discutere di tutto, però Buffon e Pirlo, perché no? Cioè, voglio dire, non penso che Sirigu sia meglio di Buffon, anche se è un ottimo portiere e l'altro giorno si è fatto trovare prontissimo. Poi ci sono delle cose di questa formazione che mi sembrano proprio forzate a prescindere. Sì, come De Sciglio a destra, come faceva Seedorf. Diciamo che questa formazione mi piace il modulo, ecco, il modulo mi piace, 4-2-3-1 mi piace. Il resto però insomma mi sembra, Verratti non è un esterno, non capisco quindi perché dovrebbe star lhì. Sì. Ma io farei De Rossi Pirlo davanti alla difesa e poi, o perlomeno la considererei come una possibilità, insomma, il fatto di giocare 4-2-3-1. Ma guarda che comunque più ci penso e più trovo intrigante comunque anche la squadra che ha giocato l'altro giorno con il Lussemburgo. Oddio, Balotelli da solo là davanti, vediamo, però centrocampisti tecnici, Marchisio bravissimo negli inserimenti. Possiamo discutere su Candreva promosso senza riserve, è diventato titolare fisso di questa nazionale, è un giocatore che ha caratteristiche, se vogliamo, anche particolari. Possiamo discutere sull'opportunità Candreva Cassano, ecco. E anche su Pirlo un filo laterale, perché se gioca De Rossi schermo davanti alla difesa e Pirlo diciamo che non sta lì proprio nel ruolo di playmaking, qualche dubbietto, no Pier? Può lasciarlo. Sì, sì, anch'io, assolutamente. No, ma abbiamo abbondanza, da questo punto di vista siamo nazionale. Il dibattito tattico ha senso proprio perché abbiamo tante soluzioni e io penso che non ci sarà un modulo solo, questa squadra dovrà essere brava anche a cambiare modulo a partita in corso. Gianni, provincia di Milano, e poi salutiamo Pierluigi. Ciao. Senti, io ho 65 anni, sì. E sono un po' vecchietto, no? Quindi io mi ricordo il mondiale 1970, sì. In altura a 2000 metri con un caldo infernale, Domenghini, Riva, Bonissegna andavano come dei disperati, ma che preparazione avevano? Primo. Secondo discorso, e questo è un po' una cattiveria, io sono interista, però penso che metà dei problemi del centrocampo dell'Italia attuale, non sto a discutere le formazioni, non ho nomi eccetera, penso che metà dei nostri problemi siano stati risolti, tra virgolette, non ne voglio male, con l'infortunio di Montolivo, perché mi dispiace, ma Montolivo non è né carne né pesce, secondo me. E quindi abbiamo lì un Pirlo che è la saggezza, un Verratti che è la velocità, cosa vogliamo di più? Pierluigi. No, io allora su Montolivo posso anche essere d'accordo, io ho fatto un tweet un po' di giorni fa dicendo, e lo ribadisco, che Montolivo meritava il mondiale, che non vuol dire che dovesse essere per forza titolare fisso, però è un giocatore che secondo me per quello che ha fatto e anche per i valori che ha in assoluto meritava di essere nel gruppo dei 23. Abbiamo a centrocampo, abbiamo tante qualità, nel senso che abbiamo un buon mix di forza e di tecnica, di Ferrati che ci danno qualità, abbiamo De Rossi che è un giocatore da combattimento, Marchisio che è un giocatore da incursione, Candreva e Cerci sono due esterni per giocare 4-3-3 o 4-2-3-1. Le soluzioni sono tante, continuo a non condividere il pessimismo dei più. Ciao Pier. Ciao. Ci sentiamo domani, No, domani no. Domani no, perché è sabato, però dal prossimo sabato vi ricordo che ci sarà un appuntamento speciale con Giovanni Capuano dalle 17 alle 18, dal primo sabato mondiale. Compardo invece ci sentiamo lunedì, naturalmente. Tutti convocati. Contento, lo posso dire con la mia solita semplicità e schiettezza. E l'Udinese è sempre stata per me la prima scelta e in questo credo di aver fatto benissimo ad aspettare che l'Udinese facesse le sue valutazioni e magari rinunciare a qualcos'altro che si era presentato prima, e sono felice, sono convinto ancora di più dopo che ho sentito e ho conosciuto di persona, in ordine cronologico, prima Gino e poi il presidente Giampaolo Pozzo, delle loro idee, delle loro convinzioni di una società che ha le idee chiare, che secondo me ha tracciato un modo di fare calcio unico in Europa, e questo lo dicono i giocatori che sono nei migliori club di questo continente, che sono passati per l'Udinese. Vabbè, zucchero e miele, queste le prime parole, non so quanto famose, di Stramaccioni, neo allenatore udinese, presentato ora. Saluto e ringrazio Cristiano Gatti, superstar del giornale. Ciao Cri. Ciao a tutti, buongiorno. Senti, non Cristiano Gatti, che non andrà in Brasile ai mondiali perché è uscito da uno splendido Giro d'Italia e si sta preparando per il Tour de France, perché questi sono gli obiettivi di stagione. Vorrei precisare, in macchina, sia ben chiaro. Poi in macchina, in bici. Che in macchina. Come lo vedi il mondiale italiano? Poi ti voglio chiedere di una certa letterina. Mondiale italiano come lo vedi? Guarda... Sì, polemico come al solito. No, ma non no. Per posa né per come si chiama? Per pura verità. No, seguendo sempre la faticosa strada di una possibile verità, ti dico che... Io non sono ottimista, non è una squadra che dà garanzie, ma non per le amichevoli che abbiamo visto, noi con le amichevoli abbiamo una bellissima tradizione. No, però anche a me questa sembra una squadra che, messa di fronte alle dure battaglie contro le Argentine, contro le Germanie, secondo me mostra limiti più che altro caratteriali. Questi, io vorrei sbagliarmi, ma non li vedo... tosti, duri, come quelli del Mondial, come il Cannavaro e il Pilo del 2006. Mi sembra una squadra un po' più fragilina, proprio dal punto di vista caratteriale. Diresta immagine e somiglianza del CT? Ma guarda, un po' sì, anche se devo dire che non bisogna troppo dare questa responsabilità al CT. Credo che sia una nazionale che è espressione della sua generazione. Anche il nostro campionato, per quanto bello o brutto sia, quando va ad affrontare le cruente arene del calcio internazionale, vedi che mostra evidenti limiti caratteriali. Io non credo che sia un problema tecnico, sì, perché i nostri calciatori tecnicamente non sono inferiori a nessuno. Io credo proprio che non abbiano la spina dorsale per le grandi battaglie internazionali. Felicissimo ovviamente di essere smentito e mi prenoto per l'Efica il giorno dopo della finale vinta. Abbiamo registrato tutto, mio caro, come al solito. Senti, invece c'è una mia cara amica che dice che i russi sono crudeli, definizione che si può estendere anche ai kazaki, credo. Perché Vincenzo Nibali, maglia rosa dell'anno scorso, il miglior corridore italiano in questo momento, al netto di Aro e di tutti gli altri che stanno emergendo, corre per l'Astana, guadagna parecchio, quasi 4 milioni netti fino al 2016. Però ben informato, ci provo ogni tanto. Però alla fine di aprile, tra Liegi Bastogne-Liegi e il Giro di Romandia, ha bussato il postino. Guardi che c'è una lettera per lei, firmata Alexander Vinokurov, che è general manager dell'Astana. In quella lettera c'era scritto: caro Vincenzo Nibali, stai attento perché non siamo contenti del tuo rendimento, che consideriamo scarso. Adesso andiamo al Tour, vorremmo vincerlo, datti una regolata. Quindi io dovrei esprimermi su questa lettera, che ovviamente tutto il mondo del ciclismo questa mattina... Guarda, io ti dico la sincera verità, correre per i kazaki ha il lato molto brillante, molto accattivante di ingaggi faraonici, perché noi quando piangiamo sul declino del ciclismo italiano dovremmo dire le cose come stanno. Nessuna squadra, nessuno sponsor, nessun tecnico sano di mente in Italia darebbe mai 4 milioni netti a stagione a un ciclista, giusto? Anche perché non ci sono. Esatto. Per cui invece in Kazakistan queste cose le fanno, però i metodi sono questi, sono molto... Io non so se la tua collega o la tua amica abbia ragione a dire che i russi o i kazaki siano crudeli, di certo sono molto spicci, volendo generalizzare. Per cui io offro tanto, ti pago tanto e voglio vincere. Sì. Purtroppo sappiamo che nello sport questa non è un'equazione sempre infallibile. Anzi, esatto. Se poi devo schierarmi, io sto con Nibali perché lo conosco per questioni di lavoro, io seguo il ciclismo da tanti anni, lo conosco bene e tutto si può dire di Nibali, meno che sia uno che batte la fiacca, che la bella fita, che gli piace il riposo, che non è godereccio e... No, Nibali è uno molto coscienzioso, uno che si allena tanto e uno che fa con molta passione il suo lavoro. Non dimentichiamo che viene dalla Sicilia, per questo è emigrato, è andato in Toscana per fare questo lavoro, per seguire la sua passione. Certo, uno può dire adesso però è ricco e famoso e si è seduto. Invece non è così, perché è uno che ha sempre la fame del campione, che non si ferma mai. E l'ha dimostrato vincendo la Vuelta e poi sacrificandosi, andando avanti, ha voluto vincere il Giro e adesso quest'anno punta al Tour. Adesso, scusa, l'ho fatta un po' lunga, però per tornare all'origine, tutto si può dire, io escluderei che Nibali ha battuto la fiacca. Se vogliamo entrare nel dettaglio... Ma come leggi? Cioè, ti mandano un richiamo per scarso rendimento, manco fosse impiegato delle poste che è al bar tutto il giorno? Esatto, però... Prima di tutto, diciamo che è vero che Nibali in questa primavera è andato piano. Questo è un punto incontestabile. È andato piano. Ma si prepara al Tour. Ma perché per imposizione della Astana, cioè di Vinokurov, quest'anno si punta esclusivamente al Tour. Tant'è vero che Nibali sarebbe venuto volentieri ancora al Giro d'Italia da campione uscente. Ma loro hanno detto no, il Tour bisogna correrlo. Bisogna puntare solo quello, non si possono aggiungere altri obiettivi. Quest'anno il Tour e lui ha obbedito. Ecco, accorgersi che poi in primavera non andava forte per vincere la Liegi Bastogne-Liegi mi sembra un po' una scoperta del Menga, se mi passi il termine. Sì, punto 1. Sì. Punto due, questo non fa che complicare la vita al povero Annibali, perché tu immagina andare al Tour de France con un solo risultato utile positivo possibile, cioè vincerlo. Tu sai che il Tour de France un italiano lo vince molto più raramente della morte del Papa, perché sì, certo, noi certo. Passano 30-40 anni, perché è una corsa particolare, molto difficile, bla bla bla bla. Sì. Immagina come può arrivarci adesso Nibali, con quale pressione, appunto, che il padrone appunto. Che il padrone ti ha puntato una pistola alla bravo testa, e appunto gli metti un sacco di alla russa, gli metti un sacco alla kazaka, gli metti un sacco di cemento sulle spalle e gli dicono adesso corri il Tour. Esatto. Non aggiungere, se posso aggiungere anche un'opinione certo. Personale squisitamente tecnica, come si dice, non è per nulla facile che Nibali vinca il Giro di Francia, perché io resto dell'idea che Froome e Contador abbiano ancora un vantaggio troppo forte a cronometro. Mm. Nibali va benino a cronometro, si difende, ma rispetto a quei due è ancora lontano. Per cui immagina, il compito è oltremodo gravoso, perché lui dovrà ipoteticamente rimangiare in montagna a quei due, mm-hmm. quello che inevitabilmente che potrebbe perdere a cronometro. Per cui anche da un punto di vista tecnico dire Nibali mi devi vincere il Tour è un po' una fesseria. Certo. Allora, siccome questi però sono ricchi e anche spicci, abbiamo detto, diciamo spicci, sì. Tante storie non le vogliono sentire, per cui tornano sempre all'origine. Ragazzo mio, io ti ho dato 4 milioni di euro all'anno, sì. E a questo punto inventati sul modo, ma io voglio portare il Tour de France in Kazakistan. E allora si torna al discorso che si fece anticamente quando Nibali lasciò la Canon della squadra italiana, che lo pagava decisamente meno mm-hmm. della metà, e tutti si dissero sì, i soldi sono tanti, ma è poi vero che va a finire in un bell'ambiente dove può tranquillamente preparare, insomma, come era successo alla Canada. E questo è il nodo che viene al pettine. Evidentemente, certo. Evidentemente i soldi che ti danno comportano un prezzo da pagare. E questo è. E questo è ciò che succede. Corri per un sacco di soldi in una squadra forte, però devi avere il risultato, perché io ti pago e voglio, esatto. e voglio la maglia gialla. In qualunque altro caso avrai fallito e faremo i conti più tardi. Esatto. Credo che questa sia questa lettera. Chiamiamolo questo ammonimento, sì. Una lettera di richiamo, come si direbbe negli uffici, sì. Serva come pezza giustificativa, perché in autunno, quando ci si siederà in sede di bilancio, sì. Farà fede, no? Farà fede nel momento in cui ci sarà da stracciare un contratto. Bravo. Facciamo bravo. Così. Bravo. Grazie, Cristiano. Ci sentiamo presto. Ciao, sempre caro, un enorme ciao piacere. Cristiano Gatti del giornale, dopo il traffico. Ruggero e Matteo, ascoltatori già in linea. Tutti convocati. Attenzione, attenzione. Interrompiamo l'intervista perché abbiamo le palle piene tutti quanti. Basta con questa intervista a Albertini, che non gliene frega un cazzo a nessuno. Poi è della Rai, frega ancora di meno. Se no ci sediamo subito qua, non si mangia neanche noccioline, neanche patatine, non si mangia un cazzo. E questo non va bene, sedetevi. Allora, se siete frequentatori del nostro Twitter, il nostro profilo Twitter, andate a vedere, perché Franco Piantini ha appena postato il video di Mario Balotelli e del suo cabaret sull'aereo più pazzo del mondo che ha portato gli azzurri in Brasile questa notte. Ruggero da Piacenza, buongiorno. Ah, buongiorno, mi sembrava di sentire Zelig. Zelig, sì. invece era Balotelli. Ah, però. Volevo solo, innanzitutto saluto, volevo solo fare due considerazioni. Per quanto riguarda Rossi, io non ho sentito, forse mi sono perso qualcosa, perché non è che riesco sempre a sentirvi sì. completamente, ma secondo me Cesare, il nostro CT, l'ha messo fuori per un problema psicologico, perché io ricordo nella partita Livorno-Firenze, quando era appena entrato a giocare, la faccia che aveva quando c'erano i cori dei tifosi, uno. Poi nella partita in cui si è fatto male a Montolivo, uh-huh. ha smesso praticamente di giocare. Pensate cosa gli è passato per la testa in quel momento. Certo. E quindi io, cioè, vederlo in campo che magari contrasta come, cioè, un po' di paura dopo tutti gli interventi che ha avuto, secondo me ci può stare. Quindi psicologicamente ha detto: senti, non me lo porto dietro per questo motivo, sì. non perché non si fida di lui. Ecco, questo è il mio pensiero. Ma non si fida, no, non di lui, delle sue condizioni fisiche, della situazione psicologica. Beh, ma Ruggero, ma d'altra parte i contorni della vicenda mi sembrano già estremamente chiari, cioè non c'è nulla di misterioso in questa situazione. Allora, Prandelli già aveva detto a Rossi: non ti porta ai mondiali. Certo. Non ti porto neanche nei 30, aveva detto Prandelli a Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi ha detto: per favore, ci provo fino all'ultimo. Fammi provare. E, però Prandelli già due volte gli ha detto, questo l'ha detto lo stesso Prandelli, guarda che nei 23 di cui non io mi porto. Fido, tra l'altro, perché per me è un galantuomo. Ma certamente questa non è una bugia. Ecco, perché non dimentichiamo, ad esempio, un altro Rossi, quando portarono dietro l'altro Rossi, che anche lui veniva da un bel incidente, comunque. No, l'altro Rossi Paolo. No, l'altro problema psicologico delle scommesse, ok. Però se non avesse segnato subito, anche lui non avrebbe fatto niente, secondo me, tornando indietro. Non segnò subito, in realtà, Paolo Rossi. Iniziò il suo ciclo con il Brasile. Anche in quel caso, Paolo Rossi arrivava da 4 partite di campionato giocate a sprazzi. Certo. Dopo 2 anni di inattività, venne convocato tra molte polemiche, questo lo ricordiamo. Giocò una pessima prima fase, in cui non la pigliava mai, e poi si accese la magia con il Brasile, e quello che è successo poi, è sui libri di storia. Poi, per quanto riguarda Montolivo, secondo me è stata, mi spiace per lui perché anche lui è un bravo ragazzo, però è uno che non ha le palle, secondo me, quindi è sempre stato sopravvalutato sto ragazzo, perché anche nella Fiorentina tanto fumo e niente arrosto, poi nel Milan la prima stagione, la stagione scorsa l'ha giocato con personalità. Ma non è un fenomeno, dai. Non è un fenomeno. Abbiamo di centrocampisti così, io avrei preferito Diamante piuttosto, cioè voglio dire, uno che ha le palle. Sarà che io sono del Toro, quindi per me è un discorso di carattere, no? Sì. Che deve essere diverso. Ma che Montolivo non aveva le palle, ma magari no, cioè, però è un giocatore che ha giocato una stagione sottotono, questo è innegabile. Ha giocato una stagione un po' da ragioniere, ho usato questo termine Montolivo diverse volte. Non è riuscito a brillare, giocava in una squadra problematica come il Milan di questa stagione, però faceva il suo compitino, non ha neanche dato, non è riuscito neanche a dare qualche scossa emotiva, portando una fascia importante sul braccio, i galloni di Capitano. Quindi l'emblema è stato quel gol che ha fatto lui, forse l'ultimo, che ha fatto la fuori area, che si è guardato intorno come dire: scusate, non l'ho fatto apposta. Cioè, no, comunque poveretto Montolivo, non c'è questo il mondiale, visto il percorso che ha fatto, se lo sarebbe meritato. Sul nome che ha fatto lei, cioè Diamanti, io rifletterei seriamente, perché è chiaro che chi non c'ha sempre ragione, no? Chi non viene convocato ha sempre ragione ed è sempre rimpianto. Però se cerchiamo un centrocampista con la capacità di infilarsi tra le linee, cosa che Prandelli sta cercando come l'acqua nel deserto tra tutti i centrocampisti che ha a disposizione, ebbene l'unico in grado di fare quel lavoro tra i centrocampisti, perché un'altra Cassano naturalmente, si chiamava Alessandro Diamanti. È andato in Cina, si è bruciato in questo modo la possibilità di andare al mondiale. Poi non so perché non è che sei mesi in Cina diventi un rottame. Vabbè, Matteo da Ferrara, buongiorno. Pronto Carlo, buongiorno, grazie per la convocazione. Sono un altro pessimista che spera di essere smentito. Volevo parlare un attimo della telefonata di Pincolini, perché quando ho sentito lui mi sono venute in mente le parole di Franco Ordine qualche giorno fa alla vostra trasmissione, che parlava degli allenamenti del Milan come i giochi senza frontiere. E se penso che i due esterni e il nostro vertice avanzato sono tre giocatori che vengono dal Milan, mi vengono i brividi, sinceramente. Mi sono perso perché mi stava arrivando in cuffia una notizia molto importante che adesso vi do. Non riguarda l'Italia, ma riguarda la Francia. Stava dicendo, Matteo? No, dicevo che degli allenamenti, giochi senza frontiere, questo l'ho capita. E i due esterni sono quelli del Milan, e quindi le vengono i sudori freddi. E Balotelli, che è il vertice avanzato, è un giocatore del Milan. Ora, se questi tre giocatori hanno giocato giochi senza frontiere negli ultimi 4 mesi con Seedorf, ai mondiali cosa ci combinano questi? Riflessione pertinente, mio caro. Riflessione pertinente, perché se 2 più 2 fa 4, dalle parole di Pincolini, che è un'autorità in materia, allora chi si allena bene arriva ai mondiali, non c'è caldo, freddo, temperature, saune, casette che tengano. Se uno si è allenato bene lo dimostra, se uno si è allenato male, anche in questo caso non ci sono saune al ghiaccio, giubbotti refrigeranti. Questa è una riflessione pertinente. C'è da dire che sono degli eccellenti atleti questi, quindi è stata rifatta la preparazione, sono sia i due laterali del Milan, De Sciglio e Abate, che Balotelli, sono tre eccellenti atleti, e quindi io spero che sia stato sufficiente questa preparazione particolarmente dura a Coverciano per mettere benzina nelle loro gambe. La notizia importante che vi volevo dare prima di ascoltare il migliore in campo di oggi è che la Francia perde, ed è ufficiale, il suo principe giocatore, cioè Franck Ribéry, era in cattive condizioni, non si sapeva. Si è tentato fino all'ultimo di recuperarlo, ma poi si è arreso, quindi non sarà tra i 23 della Francia, rinuncia al mondiale Ribéry per la lombalgia cronica, una schiena a pezzi che da tempo lo tormenta, e quindi questa per la Francia è una botta non da poco. Migliore in campo. Buongiorno Alberto. Carlo, buongiorno. Ciao. Ciao. Sì, io la telefonata è un po' per amicizia, un po' per tutto, ma ieri sera ho visto il servizio di Pardo, con la giacchettina, la camicia messa male, era all'ombra di una pianta, squagliato da non so quanto caldo o da qualche pugnacolata o qualcosa del genere, ma era devastante, poverino. Allora, ad Alberto va la maglietta di tutti i convocati di oggi. Adesso ci fermiamo. Domenica Giovanni Capuano 17-19, poi dalla settimana prossima anche un nuove sonorità. Cominceremo davvero la campagna mondiale di Radio 24. Franco Piattanida, autore di questo programma, Claudio Schiattoni in redazione e Roberto Scaltritti in regia, come al solito al venerdì ha curato il meglio della settimana di tutti i convocati. Ciao a tutti. Ammetto che Fabio Aru va sul podio. Ho detto, ma davvero? Lui è uno che capisce il ciclismo, mi spiace ammetterlo. Sì, no, io appunto ringrazio Pier queste bellissime parole. Ho voltato già pagina e si pensa ai prossimi appuntamenti, ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Devo ancora imparare tanto e c'è ancora tanto lavoro da fare. Io preferisco restare quello che sono sempre stato. Alla fine il lavoro che è stato fatto in tanti anni e mi ha dato qualche soddisfazione in questo giro, e sapere che appunto ci sono tanti tifosi che mi seguono, per me è un motivo di grinta e di voglia di far sempre meglio. Antonio Cabrini, ciao. Ciao. Nel caso fosse successo un infortunio a Rossi, immagino un po', certo. Il mondiale è talmente stressante a livello anche fisico che probabilmente c'era un piccolo rischio. È chiaro che se hai una piccola percentuale di rischio, l'allenatore o il commissario tecnico, in questo caso Prandelli, non se l'è sentita, sì. Non se l'è sentita di portarlo. Ciccio Graziani, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ma noi abbiamo il capocannoniere della nostra Serie A. Ma perché non farlo giocare subito? Ma deve essere lui il titolare. Poi provaci Balotelli insieme a lui. Ma non è più tempo di esperimenti. Poi attenzione, in nazionale non ci inventiamo che dobbiamo fare gli allenatori, perché in nazionale si seleziona, è diverso, devi prendere i migliori e metterli assieme. Non c'è bisogno di fare il 4-3-3, 3-5-2, 5-5-10. Devi prendere i migliori e devi assemblarli. Gente, tu sei per la radio come Zuckerberg per i social network, no? E Pardo è il tuo associato lì di Google, lì come si chiama lì. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?